L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dovresti essere menato, non denunciato per abuso di potere, perché con quel cazzo di microfono fai quello che vuoi tu. Dite minchiate a palate e non si ride più delle cazzate che dite. Sei una capra! Sei una fava, te e tutto quello staff di merda, la radio schifosa marcia delle zanzare morte. Dica poi tu ed amico, fatevi i cazzi vostri. Ragazzi, più leggo la storia di Messina, più mi viene una rabbia pazzesca, più mi viene veramente da, non dico da menare le mani perché sono una persona pacifica, ma mi viene il vomito, il voltastomaco. Dei signori consiglieri comunali di Messina, cioè gente insomma che dovrebbe semplicemente amministrare la propria città, avere cura anche dei denari che si spendono in una situazione drammatica, tra l'altro, come sapete, per questioni che non vi sto nemmeno a spiegare, Messina è senza acqua da un sacco di giorni, il sindaco dice che forse tornerà domenica, una roba non da terzo, da quinto mondo. Chiamate qualcuno dalla Germania, chiamate la Merkel, risolvete la storia il più presto possibile, mentre insomma la città è un disastro, perché non mi dite che è amministrata bene questa città. Non do la colpa al sindaco a Corinti, quello scalzo, ti ricordi, no? Il sindaco, come no, grande pacifista, quello... anzi vegetariano, pacifista, e chi più ne ha più ne metta. Una brava persona, dai. Assolutamente sì, per carità, sicuramente con le mani pulite. Tra l'altro il suo movimento è quello che non c'è nessun consigliere impelagato in questa storia dei rimborsi. Insomma, mentre crolla tutto intorno a Messina, i consiglieri comunali intascavano il gettone senza partecipare ai lavori del comune. Ora, cosa bisogna fare a questi qua? Per esempio al capogruppo del Partito Democratico, che ha il record, 30 secondi e poi usciva. Cosa bisogna fare secondo voi? Cioè, perché non c'è una pena adeguata? Perché non me ne frega niente se è una cosa che si può fare, perché pare che addirittura che cosa ci sia... Cosa vuoi fare adesso? No, cosa pare che ci sia... Impiccarli in piazza? No, ma mi domando cosa fare di questi qua, perché probabilmente se la caveranno dal punto cosa, di vista... Ma non pena... votarli più, no? Funziona così in democrazia. Cosa vuoi fare? Ragazzi, cosa vuoi fare? Ragazzi, se è una cosa che ti vuoi spingere... fare, no, cosa? Niente, fomenta le masse, no. Il popolo dei camionisti, dei tassisti, sto fomentando nessuno, dei casse integrati, che tutti a Messina, allora, che non facciamo fare? Niente, dai, che non facciamo fare? Nulla, il non facciamo... Grillino Cruciani, no, ma non facciamo, che c'entra Grillino, il casaleggio della Radio 24, che vuol fare il casaleggio di Radio 24, cosa c'entra adesso? Ma che può uno dire che vuoi fare, non li voti vabbè, più, lasciamo perdere, dai, allora lasciamo perdere, ladri, non li voti più, ladri. No, ma al di là della questione del processo, no. No, ladri, politicamente ladri. Non li voti più, fine. Siccome c'ho le preferenze in quel comune, nei comuni, per fortuna, non li voti più, fine. Intanto a Bari, nel processo Tarantini sì, viene condannato a 7 anni per varie cose, tra cui favoreggiamento della prostituzione, eccetera, eccetera, per aver portato delle donne a casa Berlusconi, delle prostitute a casa Berlusconi, e anche la signora Begana, Sabina Begana, la peregina, 16 mesi, eccetera, eccetera. Non ha preso un euro di risarcimento la nostra amica Patrizia Daddario. Beh, nostra amica adesso. Beh, sì, la nostra, diciamo, amica, nel senso amica, che è stata più volte ospite qui alla Zanzara, la signora Patrizia Daddario, la quale ha un tic, diciamo. Io credo che quelli che annunciano il suicidio poi alla fine non si ammazzano. Vabbè, però. Questo lo penso io. Ha un tic, cioè quello di dire io mi voglio suicidare. L'ha detto più volte, l'aveva detto a Luglio da noi, lo ripete anche adesso, dopo che non ha preso un euro dal tribunale. Ho avuto la distruzione mia e della mia famiglia. Mi hanno ridotto proprio in mezzo a una strada. Mi hanno tolto tutto quello che avevo, anche la voglia di vivere. Cioè questo è il risultato per aver raccontato la verità. Mentre chi ha mentito si ritrova adesso arricchito, pieno di soldi. Si ritrova con una vita. Io non vedo mia figlia dal 2009. Non faccio più la mamma. E l'unica cosa che mi rimane è il suicidio. Allora, già a luglio da noi così si era espressa. Io penso tutto. Appunto. Ma io l'unica cosa che mi rimane, sai che cos'è? Te lo devo dire, lo devo dire a tutta Italia. Dimmi. Cosa mi hanno portato, cosa mi ha portato il presidente Berlusconi? Cosa? È tutto quello, il suo entourage, tutto quello che c'era. Al suicidio. Ragazzi, io continuo a pensare comunque che mettere su un processo perché due o tre personaggi, tra cui donne, eccetera, eccetera, portavano donne barra prostitute barra escort a casa Berlusconi sia una follia, anche per ottenere favori. Ci sono reati perché non vanno sì, vabbè, ho capito, perseguire. Grazie che ci sono reati, sono quindi ipotesi di reato e adesso c'è una sentenza di primo grado. A mio avviso c'è una follia in tutto questo, poi fate come vi pare, processate tutto il mondo per favoreggiamento. Legalizziamo il mestiere del magnaccia. Ma per me va legalizzato assolutamente. Vabbè, ma appunto no, assolutamente. Ma questo è un altro discorso. Legalizziamo adesso. Cosa scrive Paolo Ruffini? Cosa scrive Paolo Ruffini? A proposito di Napoli invece Paolo Ruffini scrive comunque viva la topa. Ma io non lo so. Ma certo, sempre viva la topa. Sì, amico sempre, Ruffini sempre. Così ascolta quello, la radio sempre, e a buffo sempre. Ma secondo te uno che ascolta Barisoni sempre viene da scrivere una frase no, quello simile? No, quello ti viene, quello ti viene da castrarti quasi, ma cioè, da tagliarti l'uccello. Questo mai. Questo mai. Quello ti viene, come dire, una sorta di No. Cioè non è che ti, cioè non ti arrabbi. Parenzo, almeno te l'ho fatto dire. Allora, Sgarbi Guidone, su chi De Luca. È Guidone? Puoi spiegare chi è Guidone? Dai, no? Su, fammi ma chi parlare. Chi è Guidone che scrive Concord? Chi è Guidone? Non lo so. Sgarbi Bagatta. Sgarbi. Signor Bagatta. Sgarbi su De Luca, vai. Sgarbi su De Luca. Brutta merda. Abbiamo finito, è fatta. Questa è la frase per cui si è aperta l'inchiesta. Abbiamo finito, è fatta. E ancora, il marito della giudice è andata come previsto. Non può prevedere che vada bene, deve prevedere solo che vada male. Ma che cazzo di inchiesta sarà? Un'inchiesta su due intercettazioni senza senso. De Luca ha reso luminosa la sua città, vada rispettato, si scusino. Beh, adesso è un po' presto per scusarsi ancora, signor Sgarbi, per carità. Adesso poi domani, magari più tardi, ne parliamo con lo stesso Sgarbone. Professore, cioè, è ancora presto, è l'inizio di un'inchiesta. Me l'aveva anticipato ieri sera, sai, ieri sera l'ho visto in una cena lì di Giusta Causa. Sì, sì. Ma ha visto Giusta Causa, dove cazzo vai tu a Giusta Causa? Ma perché non passi? Perché non passi di Giusta Causa? Giusta Causa. Ma perché non passi le serate in un altro modo? C'era Brachino, tuo amico Brachino. Vabbè, senti questa cosa su Napoli di Sgarbi. Senti questa cosa su Sgarbi, senti. Si chiama camorra, ma si chiama anche cupidigia, speculazione edilizia, così come però tutti i luoghi che stanno intorno a Napoli, degradata come nessun'altra città d'Italia, e per mancanza di rispetto e di amore per la bellezza. Allora, adesso attaccate anche Sgarbi che dice Napoli degradata come nessun'altra città in Italia. Cioè, attaccate voi neoborbonici, difensori di Napoli ad ogni costo, gente che ha il prosciutto davanti agli occhi e non vede davanti la realtà. Attaccate anche Sgarbi su questo. Attaccate anche lui. Ragazzi, io però una cosa a proposito di De Luca la voglio dire, no? L'inutilità delle frasi di Renzi di oggi, totalmente inutili, quando dice deve governare bene. Beh, grazie Arci, uno potrebbe aggiungere, grazie al cazzo, lo dico esplicitamente. E un'altra cosa che dice la magistratura, la giustizia deve fare il suo corso. Beh, lo sappiamo, il motivo è politico. Se persone dell'entourage di De Luca hanno avuto contatti con il giudice che si occupa della vicenda di De Luca stesso, secondo me il problema è di De Luca, non sono di quelli dell'entourage. Ma certo. Cioè, De Luca non può scaricare tutto sul suo braccio destro. No, ma soprattutto lo ha scaricato dopo che ha saputo che era stato indagato, scusa, senza dire perché lo ha scaricato. Diceva era stanco. La motivazione era stanca. No, ma sentiamo Renzi questa cosa. Personaggetto proprio, personaggio come Cruciani, personaggetto. Ma chi personaggetto? Renzi? Cruciano, quel Cruciano. Radio 24. Una radio immonda. Renzi. La mia posizione rispetto alle vicende legate alla Campania è molto semplice. La magistratura faccia il suo corso, noi abbiamo molta fiducia nella magistratura italiana e allo stesso tempo il Presidente della Regione ha la titolarità, il diritto e mi permetto di dire il dovere di governare quella terra. Ragazzi, ma perché uno? Sono banalità totale, è chiaro che hai il diritto, dovere di governare, questo nessuno lo mette in dubbio. Ragazzi, perché però Marino viene affossato per due scontrini alla fine, anche se era un pretesto, e quest'altro viene difeso fino all'ultimo secondo? Giusto. Le cose bisogna dirle, no? Questa è una condanna, e il governatore, per carità, deve governare il mondo perché è bravissimo, però le cose sono lì, davanti a tutti, cioè, quello per due scontrini viene lapidato. De Luca, condanna definitiva, poi adesso alcuni suoi collaboratori trattano col magistrato, comunque traffico col magistrato, e questi del PD non dicono niente, dai. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. Dario è stata ricoverata in ospedale per codice rosso. Sembra che abbia. Stavo per dirti, ha ingerito delle pillole. Sì, delle pillole per la tiroide. Ha avuto un malore, eccetera, eccetera. Ragazzi, io ho detto semplicemente una cosa: chi annuncia in diretta non mi resta che il suicidio alle telecamere, eccetera, poi difficilmente lo fa. Ma poi uno è libero di suicidarsi, per carità. Cioè, se uno si vuole suicidare, poveretto, si suicidasse pure. Beh, libero, se si trova. Beh, sì, se uno vuole suicidarsi. Comunque, adesso abbiamo parlato di tutte queste cose qui. Non hai fatto minimamente cenno a quel terribile episodio avvenuto a Milano. Vabbè, hanno accoltellato un ebreo, d'accordo. Vedremo se è un motivo. Nel cuore della città di Milano, vedremo. Non ho visto manifestazioni, non ho visto un cartello. Bisogna essere chiari. Mattarella e bisogna vedere. Hanno accoltellato la Talibana. Sì, ma ho capito, fermo un attimo. Un ebreo ortodosso che passeggiava tranquillamente per la sua Milano. Se lo hanno accoltellato in quanto ebreo è un problema. Se lo hanno accoltellato per altri, non lo sappiamo ancora. E allora che cazzo dici? Però intanto accoltellano un sacco di gente a Milano, hanno aumentato la sicurezza. Va bene, ma questo va benissimo. Ma questo va benissimo che l'abbiano fatto. Non sappiamo perché lo hanno accoltellato. Non questo sappiamo, qua. Se è un motivo futile, magari, che ne so, cioè questo dei motivi personali sappiamo. Di questo qua. Pare proprio di che una roba. Oppure che un attentato, abbastanza. Diciamo, di stampo, come dire, terroristico in quanto. Però c'è l'emotività del momento. Non ragazzi, ho visto. Non penso grandi... che la gente non è proprio colpita da questa cosa. No, qui, esatto, adesso, questo volevo dirti. Esattamente questo mi terrorizza. Di uno dei rom colpiti da Mattielli, sentite, la madre di uno dei rom colpiti da Mattielli oltre 10 anni fa, è pizzicata credo da Quinta Colonna, cose di questo tipo. Dirle che sono dispiaciuta, guarda, le direi la più grossa balla di questo mondo. Io la morte non la auguro a nessuno, per carità, però essere dispiaciuta no, perché le direi una cosa che io non sono abituata a dire balla di questo genere. La signora non è dispiaciuta dalla morte di Mattielli, vabbè, ce ne faremo una ragione. L'abbiamo sentito in bocca anche a tanti italiani, no? Cioè non è questione di rom o non rom, Vabbè, ma una parolina la poteva dire, no? Sono dispiaciuta per la morte di uno. No, voglio dire, non è che ha una... Vabbè, sti cazzi. No, ma non è che siccome è madre... dei due rom ladri feriti dice, è tenuta a dire che si dispiace per la morte di quello che gli ha provocato secondo questa me, roba anche qua dovresti capito? Fare l'ufficio stampa dei rom, ti ripeto ancora una volta io? Come l'hai detto una volta, vorresti fare l'ufficio comunicazione stampa. No, ufficio per dire comunicazione questi dei rom sono talmente incredibili questi rom. Appunto, che avrebbero fai l'ufficio bisogno stampa, sì. Del capo di un capo della comunicazione, esatto. Perché tu ogni volta che vai lì e questi rubano, no, alcuni gli dici scusi ma voi rubano, non certo che ruba mangiare ma tu mi hai visto un criminale. Sei dispiaciuta per la morte di uno? Io no, dispiaciuta. No, ma è dispiaciuta a morte, va bene. Ma cioè, è normale, no? Cioè, questa è gente che chiaramente, no. Aspetta qualsiasi attimo, ladro aspetta. Ti dice, no, io non ho rubato un cazzo. Invece questi dicono che rubano, capisci che, no? Chi è questo che suona? Aspetta, voglio chiarire questa cosa del malore della signora Dario. La poeta, sei all'ospedale che fai? La chiami? Beh, perché uno all'ospedale non parla al telefono, non ho capito. Ma che sei matto? Tu stai male, con le pillole che la chiami? Questa è la Zanzara, mica porta. Tu stai male, mica porta a porta. Quella volta che sei mezzo svenuto, tarantolato per terra, che eri bianco, ma pallido, se non mi chiamano, come un morso. Risponde la segreteria telefonica. Portami via, dicevi, portami via, portami via. Frignavi come un cane proprio. Allora, Sansonetti, l'amico Sansonetti, che è ospite in diversi talk show di Mediaset, dice che Hermes Mattielli, ancora diciamo che è il comunista di Mediaset, ha fatto male a sparare. Sì, è uno dei comunisti che invitano di più a Mediaset, sì, o ex comunista, ex comunista. No, perché siccome è super garantista lo invitano, capito? È per questo il motivo. Cioè. No, non solo, ma anche perché fa battaglia, anche perché fa battaglia. Nessuno Stato democratico si può contrapporre a un reato un altro reato. Non si combatte l'illegalità con l'illegalità. Non si può combattere il furto sparando 14 colpi di pistola. Hermes ha fatto malissimo a sparare 14 colpi di pistola. Oh, si discute sui numeri, sui colpi, numero di colpi. 14 no, 3 sì. Cioè dopo 3 ti devi fermare, anche se quelli ti vengono addosso. Dopo 3 ti devi fermare. Dai. No, come dire che c'è stato un eccesso colposo. E infatti è stato condannato. È stato condannato per aver ferito quelle due persone che rimarranno invalide a vita. Vabbè. Infortuni del mestiere. Se vai a rubare ti sparano, peggio per te. Vai a rubare ti sparano, peggio per te. E tu non mi dire che hai compassione per i rom che sono andati a rubare da Mattielli. Ma non hai compassione per i rom. Non ho nessuna compassione per i rom. Ma non lo vuoi dire? Io voglio che la legge. Ma non lo vuoi dire? C'è stato un processo? Non ho nessuna compassione. Sono due ladri. Dai, lascia perdere. C'è stato un processo. Quello è stato condannato perché ha crivellato di colpi questi due ladri. Crivellato, come si dice? Crivellato di colpi, come si dice? Gli ha sparato solo crivellato di colpi. Sì, crivellato. Giusto. Bene, come vuoi dire? Benissimo. Il tuo politicamente improvvisamente salta fuori politicamente corretto. Benissimo. Crivellato bene, di colpi. Ottimo. Due persone li ha inseguiti bene, fuori. Ottimo. E li ha crivellati ottimo, di colpi. Non ti sentire male però. Federico ma da Prato, mi fa incazzare vai. Quando Federico, fai così. Bene, ma mi piace quando ti incazzi. Per eccitare gli umori più ma bassi. Stai tranquillo, io dico quattro... quello che penso, non devo eccitare nessuno, stai tranquillo. Li titilli, non mi interessa, dico quello che penso, forse non ti è chiaro, al contrario di te. Dico quello che penso. Anch'io quello che Federico da penso. Prato, vai, Federico. Sì, dottor Cristiani, sei un grandissimo. Dimmi. Senti, no, io volevo sapere una cosa da Parenzo. Se Federico parla dei rom, ma una cosa sincera, volevo sapere se lui c'è o ci fa. Vai. Sono preoccupato, perché prima si lamentava di Ruffini che scriveva Viva la Sopa, poi difende i rom. No, no, lì non mi lamentavo, lì ero entusiasta. No, no, invece, cioè, non lamentarsi, sinceramente, no. Perché ci sei o ci fai quando parli dei rom? Sì, ma che vuoi sapere? Che vuol dire ci sei o ci fai? Dai, come che vuol dire? Se lui fa così, fa una. No, però articoli oppure... un discorso che abbia un soggetto, un verbo e un complemento oggetto. Non occorrono delle frasi complesse, strutturate alla Moravia. Dica delle cose che. Tu c'è un soggetto, un verbo allora, e un proprio la base. Allora, il signor Parenzo. Ecco. Pensa davvero queste cose di rom oppure sì, lo pensa le cose che sono legate al rispetto del diritto, non dei rom. Vabbè. O non dei rom. Senti, al di là del diritto, no. Al di là del diritto, grazie Federico, grazie. Al di là del diritto, c'è una cosa molto semplice che mi scrive giustamente un ascoltatore. Sì. Se li avesse crivellati per davvero, questi qua sarebbero morti. Nessuno dei due è morto. Nessuno dei due è morto. Chi è questo genio perito balistico? Nessuno dei due è morto. Ma chi è questo perito balistico? Ma sono rimasti invalidi al 100%. Beh, no, che invalidi. Uno c'ha una gamba più piccola. Ma quando tu vai a rubare a casa di uno. Ma non quando tu vai a rubare questione. A casa di uno, allora ti puoi aspettare che quello là reagisca. Ma lo metti nel conto. Ma servono a questo, no? Sì, d'accordo. A determinare se c'è una proporzione. E uno può anche giudicare quei processi sbagliati. E io considero quella roba lì sbagliata. Perché ecco, signor Hermes, fai la battaglia con i tuoi amici della Lega. Ma no, io faccio la battaglia d'Italia con chiunque, non me ne frega niente. La legge. Pure con Hitler. Pure con Hitler la faccio Hitler, la battaglia. Lascialo sottoterra che sta già fatto dei bei danni per 30 anni e sta bene lì. Hitler è una categoria dello spirito. A dopo. Ma io ho chiamato la Zanzara, mica ho chiamato, che ne so, Barisò. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia. Sono Filippo Astone, vi aspetto ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13 sulle frequenze di Radio 24. Per osservazioni, richieste e curiosità, la nostra mail è fabbrica@radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta La Zanzara. preghiamo. O Signore, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. In realtà ho pensato, Parenzo, che dopo tutte queste notizie di abati di Montecassino che vanno in cerca, così avrebbe scritto in una chat di Cazzi, 3 giorni di paradiso a Berlino, poi al caldo la vita è tiranna e puttana e per questo che faccio tutto quello che mi pare, oltre a essersi trafugato decine di migliaia di euro destinati ai poveri, questo se non addirittura monsignore, centinaia di migliaia, sì, monsignore, monsignore, monsignore, il mitico Pietro Vittorelli ormai, no? Sì. Che nelle chat Grindr eccetera era noto come Marco Venturi. Oltre, ho pensato che dopo queste vicende qui, dopo le vicende di Bertone, hai scoperto anche cosa nascondeva l'attico di Bertone? Beh, sì, ragazzi, siamo veramente al top. Cioè, addirittura sembra televisore da circa un 19.000 euro, una cosa, come un impianto stereo da 19.000 euro. Normale, normale. Finestre costate 70.000 euro, altre 28.000 euro spesi per le pompe di calore, parquet in rovere costato 25.000 euro, beh, 10.000 euro marmo di Carrara. Ma perché non vuoi avere, eccetera, un parquet in rovere, scusa? No, ma per dire, dopo tutto questo ho pensato in realtà che il modo in cui i preti si esprimono durante la messa, che è quel preghiamo, no? Ma no, no, i preti, però vedi che già qui i parroci, quelli che dicono messa, non quelli ma che non dicono sono messa, tutti così. No, lo so che sono tutti così, però andrebbe cambiato quel preghiamo in freghiamo. Cioè, in realtà ecco, basta, vedi, una, lo sapevo, il qualunquismo, basta una, no, PF, PF, una consonante PF, preghiamo, freghiamo. Preghiamo. O Signore, fa che questo sacramento ci rafforzi nel tuo amore. Dovrebbero dire freghiamo. La gaffa di Berlusconi su Matteo Renzi, Matteo Salvini, la grinta Berlusconi. Ciascuno di noi porterà quel che può portare, la grinta la porterà Matteo Renzi, la determinazione la porterà Giorgio Meloni, io Matteo porterò Renzi, la mia esperienza, Presidente, e se consente anche Presidente, la mia creatività. Ha detto Matteo Renzi, è ho vero detto, che lei considera Matteo Renzi quasi un ideale, che se adesso non vuole più bene, un Matteo ideale Salvini, figlio politico, Matteo Salvini. Vede, è tanto che manco dalla televisione, quindi lei mi considera di essere... Ma adesso... C'è una buona notizia che viene però dal Quirinale, perché Mattarella ha concesso la grazia parziale ad Antonio Monella, che sparò al ladro che gli stava rubando la macchina. Vedi lo Stato. È una grazia parziale. Lo Stato, sì. Intanto questo sta in galera. La grazia parziale di 2 anni di reclusione. Molto bene. Questo è lo Stato, vedi? Bene. Va bene, andiamo a Milano. Mirko, vai. Ciao. Dimmi. Allora, io ho preso il telefono subito, dopo 10 secondi di trasmissione, quando ho sentito il tuo collega. Sì, sì. Allora, tu giustamente hai detto che avevi il vomito in bocca quando senti parlare di questi consiglieri di Messina. Io sono di Palermo. Sì. Io vivo a Milano, ma sono di Palermo. Ma come fa lui a dire che ci penserà la democrazia? Cioè, non ha capito. No, non ha capito, ma non mi stupisce. Mirko, però male. Metti bene il viva voce. Ho detto che semplicemente che siccome non si possono impiccare in piazza, che è una frase a effetto che va bene detta da quel demente di come si chiama lì, quello che c'era ieri, come si chiama? Chi? Formaggio. Quello di ieri, chi? Ma no, l'altro, il pseudo conduttore radiofonico di quella. Casciani, sì, allora. Eccoli lì, sì, ecco. Non si possono torturare le persone? A parte, ecco, detta in bocca a un imbecillotto, così va bene. Ma se uno dice che devi fare, quelli devono essere puniti dall'elettorato, mi immagino, no? Cioè, voglio dire, che vuoi fare? Ma innanzitutto vanno presi dal sindaco ma non a pedate nel sedere. Ma va bene, ma. Cioè, la politica dire, si dovrebbe ribellare. No, a pedate nel sedere, non fisicamente. Ma li fa dimettere tu. No, ma cerchiamo di capire. No, che bisogna. Vuoi fare? Che bisogna in qualche modo trovare, non le ho difese, bisogna trovare dei modi. Bisogna trovare dei modi, mozioni di maggioranza, ma cose di questo uno. Tipo. Non lo so, ma dei modi che non siano, come dire, brutali. Cioè, o si dimette il sindaco. Vabbè, Mirko, tu cosa faresti? Ecco. Licenziarli. Vabbè, ma licenziarli ma non è si che può, sono. Ma no, perché non si può? Ma non sono dipendenti che li puoi licenziare. Ecco, punto. Ma non sono dipendenti, ma se noi cominciassimo a usare lo Stato come un'azienda, vedi che le cose andrebbero meglio. Vabbè, sono d'accordo. Io sbaglio. licenziato. Se io nella mia azienda vado a timbrare lì e poi me ne vado a casa, io vengo licenziato. Se vado a timbrare in mutante, vengo licenziato. Se noi cominciamo ad avere una visione di sì, no, stato, ma non c'è dubbio che se tu se hai provato che tu sei andato lì, hai provato le telecamere, no, cazzo, certo, cioè, se hai provato nel senso al 100% che tu sei andato lì, sei rimasto 30 secondi come è successo al capogruppo del PD lì, un tale che si chiama David, tra l'altro di cognome, non c'entra niente con Parenzo, che si chiama di nome invece, David, beh, insomma, andrebbe in qualche modo, come in un'azienda privata, licenziato. Cioè, poi, anche pagato. Poi sembra, Parenzo, che addirittura fosse prevista la riunione lampo delle commissioni. Cioè, avevano trovato, anche dal punto di vista, come dire, tecnico, un modo per farla franca. Cioè, ma sono dei criminali, ma questo è evidente. Però cosa grazie, vuol dire, Mirko. Cosa... Andiamo a Torino, Eros. Sì, ciao. Ciao, dimmi, Eros, dimmi. Ascolta, ti volevo dire una cosa da Parenzo, di limitarsi, la sua rabbia deve essere, diciamo, liquefatta nell'amore, non so, nella scienza, nell'intelligenza. No, capito. Però questa guerra di religione porterà solo all'estinzione, arabi, ebrei, cristiani. Non c'è nessuna cosa, cosa c'entra, scusa, basta. Non ho capito cosa c'entra con la vicenda di Milano dell'accoltellamento. Sei inalterato sul fatto. Vabbè, uno che può essere preoccupato che a Milano si crei un clima ostile agli ebrei. Da ebreo sono preoccupato che un signore, un cittadino italiano che gira con la kippah per Milano, non per Parigi, vabbè, o poi per vedremo, o per Riyadh, o per Riyadh, o per una opera. Viene accoltellato magari per motivi religiosi, questo è il punto. Esatto, questo solo ho detto. Vedremo se, vedremo se è per motivi religiosi. Per carità, Eros, che cosa hai da protestare su questo? Non ho capito, dimmi. Basta, questo ci porterà alla nostra estinzione. Ma nostra, questo cosa? Ma questo cosa ci porterà? A quale estinzione di cosa? Spiegami. Vabbè, Fabrizio da Latina, dai, Fabrizio da Latina. Buonasera. Dimmi, Fabrizio. Volevo far cazzare un attimo stasera, volevo far cazzare un attimo Parenzo. Dimmi. Ah, io voglio dire, no, cioè, perché le prostitute non possono avere un protettore, oppure, cioè, adesso si chiama protettore, ma io, cioè, come l'attore che c'ha, un attore che c'ha per esempio il procuratore, cioè, se io devo contattare un comico, no? Non è che vado a contattare direttamente il comico, vado a contattare il suo. Sì, diciamo che il mestiere è leggermente diverso. Io sono per la legalizzazione del magnaccia. Cioè, sono per la legalizzazione, io sono per la legalizzazione del gestore di prostitute, che può essere, vuol dire, un manager di prostitute, però tutto legale, tutto trasparente. Ma perché adesso è stato condannato Tarantino? Cioè, là c'è una cosa. Lì c'è anche associazione. Le donne che Tarantini ha portato là, no? Sì. Ci sarebbero andate da soli, sarete uno in fila. No, ma io sono d'accordo con te. Mettere in piedi un processo perché Tarantini, per ringraziarsi Berlusconi, gli portava le donne, secondo me è una follia. Dopodiché, poi, perché, sicuramente, cioè, come dice Parenzo, ci saranno gli appigli di legge. No, questi giudici sono tutti froci. E siccome che le femmine non se lo hanno manco permesso. No, non ho capito che cosa sono. Cosa sarebbero i giudici, non ho capito? Cioè, secondo me, voglio dire, alla fine, no, siccome questi giudici tu dici sono invidiosi, quello che faceva Berlusconi non se lo possono permettere. Allora, sono ecco, invidiosi dell'attività di Berlusconi, dici. Certo. Vabbè. Secondo me è così, perché. Va bene, Fabrizio, tu di mestiere che fai? Ma io la sera faccio un camionista. Fai il camionista. Beh. Camionista. Senti, camionista. Ma io ripeto ancora una volta, ma ti fermi ogni tanto in qualche piazzola? Ricevi qualche visita in piazzola? No, io non mi fermo in piazzola, perché le piazzole non mi ci sono mai fermato. Però tutti i froci che stanno alle piazzole hanno ragione i colleghi che parlano, che ho sentito varie volte. Che perché hanno ragione? Non ho capito. Ah, ci stanno un sacco di froci in giro, voglio a te. Vabbè, quello non c'è dubbio. Anche affollano anche le piazzole delle autostrade. Io sono un vero porco della vecchia maniera, cioè te, sì, beh, certo, la cosa, diciamo, gli omosessuali non li sopporti, diciamo la verità. Ma no, cioè, io ne conosco tanti, pure dentro le cooperative che vado a carica io, cioè ce ne stanno parecchie, ma c'è il gioco, c'è scherzo. Ma anche tra i camionisti. Ci gioco, ci scherzo. Ma camionisti non ho mai conosciuto i froci, dico la verità, non ho mai conosciuto un frocio camionista io. Ah, no, non esistono, beh, ragazzi, questo non è possibile. Dai, no, in ogni categoria è pieno. Ma in ogni categoria è pieno, anche tra i camionisti ci saranno, dai. Cioè, ma probabilmente, però io non mi è mai capitato di conoscere. Ho capito. Ciao Fabrizio, Nicola Pescara, vai. Nicola. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi. Io sono incazzato nero con te, ma perché? Tu sei cosciente di aver creato un mostro? Qual è? Se tu ci fai digerire da anni parenti. Questa è la serata no di Parenzo, mi ci metto anch'io, ma io non ho le palle piene. Perché? Se che ha questo... detto stavolta? Allora, cosa ha detto? No, stasera veramente basta, non ha detto nulla. Abbiamo le palle piene, ti dico perché. tu l'hai preso, l'hai portato nella tua trasmissione. Ma che c'entra? È questa, diventato un opinionista nazionale, va in TV. Ma quello anche prima andava, dai. Ma che andava prima? È uno sfigato, ma chi cazzo lo conosceva? Beh, tua madre mi conosceva, ad esempio. Perché l'hai reso un mostro. Beh, tua madre mi conosceva, ad esempio. No. Tua Mettila madre di Pescara, la no? La tua vocina da checca isterica. Tua madre non mi conosceva, nessuno. Tu sei un padovano, mi sembra sei di Padova, vero? Sì, hai la biografo ufficiale, sì. Allora, c'era un tuo compaesano, concittadino, che diceva che avevi anche il culo chiacchierato. Spero che tu lo smentisca prima o poi. Comunque, a parte questa battuta. Bene, ti ripeto, tua allora, madre io voglio, diversa, però, io a nome di molti ascoltatori della Zanzara, voglio un nuovo partner per Cruciani. Sì, voglio giusto, questo è giusto. Allora, posto di Parenzo. Su questo sono d'accordo. Possiamo prendere Portento, possiamo prendere il mago Telma, ma perché dobbiamo sopportarci il molecapulismo quotidiano? Non ti sta bene tutto, ti stanno bene i delinquenti, ti stanno bene tutti quelli del PD, ti stanno bene i giudici, ti stanno bene i presidenti, hai rotto i coglioni, sono d'accordo vai con a te. Fare in culo, ti pagano pure in TV. Totalmente in TV. D'accordo con te. Vai con le tue scarpine di camoscio in TV, con la tua camicetta bottom down dalle capo di sinistra. Sono church quelle. Hai rotto le palle, passami Cruciani, lo devo ormai. Church, la colpa è di Cruciani, ha creato un mostro, tu sei un mostro, un mostro mediatico, sei insopportabile. Ma tu chi, io o Cruciani dici? No, sta parlando di te. Tu sei questa vostra mostro. Diatriba non entro. Sei un mostro mediatico, insopportabile, perciò hai successo. No, ma questo è vero. Però adesso hai rotto i coglioni. Ma smetti, io credo di che tu una abbia cosa ragione. Tua, dici una sera un tuo pensiero. Ce lo Nicola dici da Pescara. Ma va a far culo, questa è la cosa che penso. Ma vai tu a far culo. Ma mi chiedo cosa penso, te l'ho detto. Va a far culo, lo apprezzo. Ma tu pensa hai detto una cosa fuori ma tu pensa il vantaggio di essere pagato per mandare a fare in culo ma Nicola da Pescara. Sono sincero. È roba geniale sincero, per sé. È una cosa pazzesca, geniale. Sei un mignottone mediatico, meraviglioso. No, ma quello no. Però preferisco il mago Telma, perché hai rotto le palle. Sì, no, ma quello anche io, effettivamente. Anche ragazzi, dobbiamo dare la linea però alle informazioni. Lo so. Ma non interrompere questo flusso narrativo. A me lo dici. Scusa. Si sa che Parenzo ha il culo chiacchierato a Padova, State ascoltando un programma offerto da Huawei, make it possible. La Zanzara. Ma ci sono un sacco di veloci in giro, ogliate. Io sono un vero porco della vecchia maniera, cioè a me piace la figa. De Luca, secchiate di olio bollente sulla capoccia. Terremoti, assedi. Chi pensa di fare l'assedio riceverà sulla capoccia secchiate di olio bollente. Quale assedio? Noi siamo in attacco. Allora ragazzi, oggi sono stato ospite di una trasmissione del pomeriggio condotta da Tiziana Panella sulla 7. Si parlava di animali. Bravo, autopromuoviti, giusto? L'avrei detto. No, non sono autopromosso, no, stavo semplicemente raccontando un bella fatto di cronaca. Ti ho visto. Non ho detto né bella né brutta, perché non sono come te. Ma era una bella trasmissione o no? Ma il momento in cui sono stato io sicuramente sì. Allora, c'era ospite la signora Carla Rocchi. Carla Rocchi, che è presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ente a mio parere totalmente inutile. La signora Carla Rocchi, si parlava del veterinario famoso che si è fotografato dopo aver cacciato il leone e soprattutto del fatto che adesso è assediato, lo vogliono cacciare, non vogliono più far fare il mestiere di veterinario per mille motivi. La signora Rocchi ha descritto, ovviamente contraria alla caccia, a quant'altro, questo è scontato. Normale. Ha detto che il veterinario è brutto, così ha detto, è brutto, e poi che la protesi le fugge. Ma sentiamo la signora Carla Rocchi. Sei brutto. Vogliamo usare un criterio estetico qualche volta? Io quest'uomo lo guardo e non giudico i suoi comportamenti, è consegnato al giudizio delle persone, ma guardatelo, sta lì, tutto azzimato, con questo leone bellissimo anche quando è morto. Lui è consegnato, azzimato, la sua bruttezza rispetto al leone, è proprio brutto. Ma adesso tanto per essere chiari, ma guardarsi allo specchio mai, cioè guardarsi allo specchio no, signora Rocchi, per carità, detto con tutto rispetto, ma perché dovrebbe essere brutto quel veterinario? È un signore normale che si mette in posa con il leone. Poi senti ancora questa metafora sulla protesi del fucile. Devo dire, io non so cosa c'è sotto il cappello. Di che? È brutto. E vive con questa protesi del fucile che mi lascia inquietanti interrogativi sulla sua, come posso dire, sulla sua situazione personale. Sento che vuole dire la sua vitalità. Ha detto che è brutto e impotente. Sì, ha detto che sarà pure un gran bel figo. Io personalmente lo trovo inquietante con questa protesi. Poi ha detto che un veterinario che uccide è come un insegnante di scuola che si prostituisce. Poi non ci ho nemmeno pensato troppo sul momento che ero distratto, perché è veramente una boiata incredibile questa qua, eh. Il veterinario che uccide un animale è come un insegnante di scuola che poi va a battere. Una signora che faccia la maestra d'asilo la mattina, secondo voi è decoroso, è acconcio che faccia la lucciola di notte? È lecito se non induce alla prostituzione, ma vi sembrerebbe carino? A parte che se, io non ci vedrei nulla di male, una che fa l'insegnante e dopo di notte magari per bisogno si arrotonda facendo la prostituta, facendo qualche marchetta, non ci vedo questa grande contraddizione, no? Cioè rispetto a... Non lo so, bisognerebbe trovarsi come insegna, come genitore, non lo so, se tua figlia... Magari non insegna so. Benissimo, questa qua insegna sì, benissimo e di notte essere. Fa le marchette in casa. No, ma adesso stavo pensandoci se capitasse a mia figlia un insegnante... Comunque, Daniela D'Asti, vai, 800 24 00 24, Daniela. Ciao. Ciao, dimmi. Ciao a tutti. Senti, io chiamo in merito a fucili e giarrettiere. Fucili e giarrettiere. Ecco, cioè? Niente, avevo raccontato che in pratica a me è successo che un giorno, trovandomi a casa da sola con mio bimbo, io abito isolata, Sì. Non abito in città, e grazie al cane ho iniziato a sentire, cioè il cane abbaiava, affacciandomi ho visto che c'era una persona che continuava a guardare all'interno della recinzione. Poi, per fartela breve, insomma, passando da dietro la casa, sì, è salito verso il bosco e aveva tutta l'intenzione di entrare. Tra l'altro mi ha anche visto, perché comunque io mi sono affacciata due volte per vedere. E poi alla fine io ho il porto d'armi, ho detto questo, cioè comunque sta entrando in casa e, nonostante mi ha visto. Quindi ho pensato che le sue intenzioni non fossero un granché. E allora? E allora ho tirato un colpo in aria, ho messo il bambino con la televisione. Ma tu perché hai un'arma, volume. Scusa? Io detengo un'arma perché ho il porto d'armi per uso sportivo e io e mio marito facciamo ogni tanto... Ma tuo marito non c'era in quel momento? No, non c'era, era mezzogiorno, lui era al lavoro. Non Vabbè, c'era. Hai sparato in aria poi? Ho sparato in aria, per fortuna mi è andata bene che questa persona si è data gambe. Poi vabbè, ho chiamato i carabinieri, tutto a posto. Vabbè, che vuoi dire con questo? Volevo dire, riallacciandomi al discorso di quel poveretto che è stato condannato a pagare, diciamo, è stato seppellito, in più deve pagare i rom per quello che, perché ha, diciamo, sì, ormai è morto, diciamo, non paga più nessuno, cioè, non paga più nessuno, sì, però, cioè paga la casa che i parenti non hanno accettato nell'eredità. Certo, io dico, è brutto quando lo Stato comunque la venderà, i soldi andranno ai rom. Sì, infatti, però io dico una cosa, io spero che non mi capiti mai più di fare una cosa del genere, però sinceramente con le persone, con i delinquenti che ci sono adesso, diciamo che ti trovi costretto molte volte a reagire in questa maniera. Cioè, ma sì, ma non si può nemmeno calibrare la reazione, questo è il punto. Cioè, io poi dico, questo io non capisce anche la lead, non io dopo sono stata malissimo dopo questa. Vabbè, pensa un po', tu hai sparato solo in aria, cioè pensa a quelli che sparano. È andata bene che questo se l'ha data gambe, non ha. Va bene, Daniela, grazie. Benedetto da Como, vai, Benedetto. Arrivederci. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Io chiamavo perché sono veramente sconcertato dal peso che viene dato ai reati in Italia. Secondo me è assurdo che Tarantini si prenda 7 anni per aver accompagnato delle ragazze, sicuramente tra l'altro consenzienti, anzi saranno loro che gliel'avranno chiesto per entrare nel mondo dello spettacolo, si sa come funzionano queste cose, e che vengano dati 16 anni di pena ridotta a un bastardo che ha mandato su una sedia a rotelle una ragazza, che tra l'altro magari si becca anche l'infermità mentale. Io vorrei capire in base a cosa vengono date. Vabbè, sono una serie di reati, credo, associazione a delinquere, eccetera. Esatto, non c'è che solo insieme sommano quella cifra lì. Però di base può avere ragione questo ascolto, cioè, sì, alla fine che cosa ha fatto o che cosa ha tentato di fare Tarantini? Cercava di sfruttare delle ragazze, di presentarle a Berlusconi, con Berlusconi forse consapevole, sì, forse no, non lo sappiamo, per ottenere dei vantaggi. Ma lui ha da ragione, Berlusconi, cioè messo così il dato è vero, cioè che proporzioni ci può, su questo ha ragione, però c'è una differenza, no? Cioè siccome è lo stesso reato, magari lo hanno contestato anche al magnaccia, che so io, albanese, che è quello che magari sfregia le ragazze e le obbliga a prostituirsi, è assurdo che venga contestato a Tarantini lo stesso peso che viene dato magari veramente al magnaccia, quello cattivo e che le tiene in stato di detenzione. Su questo probabilmente ha ragione lui. Va bene, Benedetto, ciao. È sbagliato. Siete proprio delle belle. La Zanzara. Fai così, guarda, io ti consiglio una cosa, carica il podcast, ascoltati e sentirai quanto sei noioso. Allora ragazzi, il Ministero dei Beni Culturali ha dato il suo patrocinio ad una mostra che ci sarà a Lucca, a mio parere non ci sarà nessuna mostra poi alla fine a Lucca, in cui si espone un'opera d'arte di un tizio che si chiama Andrés Serrano. In questo, in questa mostra ci sarà un'opera particolare, cioè Gesù Cristo immerso, il crocifisso immerso nell'urina. Il crocifisso immerso nell'urina. Brutto, brutto, brutto. Dal 21 novembre al 13 dicembre al Festival di Lucca. Sì, ragazzi, però nelle opere d'arte c'è anche questa provocazione qui, eh. Cioè, adesso si può provocare su tutto, non si può provocare sul crocifisso. Cioè, no, ci ma sarà, no. Sì, ma ci sarà un significato in quest'opera d'arte, no? Cioè, non è che è semplicemente la blasfemia di mettere un crocifisso, no, però, dentro l'urina. Attento alla differenza, qui nessuno, per fortuna, grazie a Dio, perché siamo una civiltà, sparerà, farà atti che in altri paesi teocratici, no, ti tagliano la gola. Per fortuna la nostra civiltà. Però almeno criticare si può, no? No, ma cioè, certo. Almeno dire che, e lo dice uno che appartiene, diciamo, a un altro, cioè, partito. Tu dici il patrocinio del Ministero dei Beni, esatto, Culturali, bravo, non ci deve essere. Cioè, ma lo Stato. Non lo so. Adesso me lo, sì, me lo però dici là tu. Si va a discutere sull'opera. Si va a discutere sull'opera. Il crocifisso nell'urina, no? Ma, no, e magari un'opera d'arte con un cazzo di 20 centimetri, sì. Cioè, non capisco qual è il limite. No, ma cioè, no, è vero, è giusto. Però questo è. La cosa è. C'era nessuno farà nulla. Che qualcuno si indigni, però lo reputi legittimo. E io voglio dire, no, sono ma qualcuno di un'altra si arrabbierà, parrocchia. Ma non vai, non vai a vedere la mostra. Non vai a vedere la mostra. Qual sì, è il problema? Non è che è esposta in piazza. Fa scandalo anche il fatto che qualcuno possa, ma dire, no, ma scusate se vi dico che forse il patrocinio non è, ma chi esattamente alla fine, il patrocinio, Van Gogh, vabbè, d'accordo. Non è, capito? Non è Balthus, non è quello che vuoi tu, capito? È un'altra roba. Cioè, è necessario il, sì, patrocinio? Quello non lo so, quello è, questo è probabilmente forse. Manco lo sapevano che esponeva. Poi, questo qua, se un privato vuole fare quella roba lì può fare quello che gli pare, una galleria privata, uno espone quello che vuole. Allora, ma ne ha inventata un'altra delle sue, Gianluca Buonanno, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera. Sai, beh, che si è inventato, David? Sai che non sono obbligato a seguire ogni giorno come si muove. Però devo dire un che l'ultima cosa che circo, ha detto Davide Parenzo mi trova perfettamente d'accordo. Ah, quella sul crocifisso. Tu che, tu che faresti, aspetta, a questo, aspetta un attimo, a questo forse artista? Devo rivedere un attimo la mia posizione. Sei d'accordo con Morano? No, scusa un secondo, che forse. Aspetta, perché ho avuto. No, perché sono appena uscito da un male terribile che è la bronchite. Visto quel che dice Morano, forse devo un attimo rivedere la mia posizione, perché sono in difficoltà seriamente per la prima volta. Non, cioè, quell'idiota da Prato che ha chiamato me. Tu che faresti? Non ho, no, capito. Sono d'accordo con Morano. All'artista del crocifisso, che faresti, Gianluca? No, no, vabbè, posso essere d'accordo. No, ognuno è libero di. Allora, premesso che secondo me ognuno è libero di fare quello che ritiene opportuno, oltretutto, essendo un artista, ovviamente. Fa quello che si sente, allora? Però io non approvo. Vabbè, che non approvi, non ti piace, vabbè, d'accordo, ma, no, ma il timbro del ministero. Non avrei è utile. Dato patrocinio. Ecco, appunto, ha ragione. Su questo purtroppo ha ragione. Ma, ogni tanto. Ho capito, ma ragazzi, ma questo è una cosa. Un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora esatta. Quindi buon anno, che è un orologio rotto. Due cose intelligenti in un anno le dirà. Una è questa, aspettiamo la seconda. Vabbè, Gianluca, io non ho capito. Che cos'è che ti sei inventato con la foto di Marquez? Ma no, perché ho conosciuto Cremonini in un concerto Varallo anni fa, sì. E con lui c'era Uccio, quello che segue sempre Valentino Rossi, e le ho trovate due persone veramente, vabbè, a modo, vabbè, così, e sono uno stimatore di Valentino Rossi. Vabbè, quello è un sacco di italiani, insomma. Vabbè, certo. No, facciamo un riassunto. Ieri ho letto un articolo di Cremonini in merito alla questione di Marquez e Valentino Rossi, che ha scritto sul Corriere della Sera, e mentre leggevo quell'articolo di Cremonini, che ha scritto, dicendo che Marquez non potrà mai essere un campione come Valentino Rossi, ho alzato gli occhi dall'articolo che stavo leggendo e avevo davanti la porta di un bagno. Sì. E mi è venuto un flash così. Un flash così, un colpo di genio. Diciamolo pure, un colpo di genio. Non lo definirei così. Non è un colpo di genio. Non mi spingerei così avanti. Se alla fine Marquez ha fatto quello che ha fatto e leggendo che mi sono ispirato, ho detto va bene, allora nei bagni pubblici di Borgocese metteremo la foto di Marquez per entrare nei bagni pubblici, perché questo è un po' l'ispirazione che ti viene guardando adesso. Cioè, non ho capito, tu vuoi riempire ogni bagno pubblico di Borgosese? Quanto cazzo di bagni pubblici ci sono a Borgosese, scusa? No, ce ne sono alcuni e poi ci sono anche i bagni del municipio. Cioè i bagni del municipio, i bagni pubblici di Borgosese riempiti di foto di Marquez? No, con la foto di Marquez, sì. E che c'è scritto sopra? Ma c'è una foto di lui che ride, dove c'è le dita, gli ho messo della carta igienica, e se lo guardi intensamente potresti avere... potrebbe avere un effetto lassativo, cioè può cagare, guardi Marquez e ti viene da cagare meglio. Sì, nella sostanza in maniera più elegante l'ho scritto. Parenzo ride da sole, sentite, cioè, perché del fatto che comunque Marco con quello che ha fatto è giusto dedicargli i bagni pubblici, in questo caso di Borgosese, è il posto giusto per quello che ha fatto. Capito Parenzo? Come ti pare questa iniziativa? Mi pare in pochissimi secondi che ha ridotto quella città a livello, credo prima pensavo soltanto piemontese, poi ora credo a livello nordico, poi a livello italiano, ora a livello europeo e quindi mondiale, ha ridotto questa città a un grandissimo circo. Questo io. Cioè tu dici tra cartonati dei... Esatto. Tutte le iniziative messe tutte insieme non voglio neanche ripercorrere. Se io fossi cittadino della Lossesia farei causa all'amministrazione. Ma questi lo votano invece. Li farei parte civile e poi ti stupisce che c'è gente che violenta i cassonetti in quella città, capisci? No. Cioè, voglio dirti, c'è un signore che ha violentato un cassonetto in quella città. Cioè, il ma livello una volta, una volta di troppo, perché in nessun'altra città d'Italia dove governano altre persone tu trovi uno ha violentato un cassonetto. Questo violentato un cassonetto delle immondizie. Questo ti dà veramente però, la scusami, cifra Gianluca, di cosa è ridotta questa città. Quanto ti costa questo? È un modo scherzoso per far capire ma quanto ti costa questa iniziativa di mettere le foto niente, di Marquez? Ma niente, ma che cosa vuoi che mi costa? Mi costano le fotocopie di quello che è la faccia di Marquez. Fine. Le faccio plastificare, mi costerà. Metti tanto 15 euro. Ah, 15 euro tutto dici? 15 ma sì, euro tutto. Ma è proprio il modo, no, per prendere in giro, per dire vabbè, guarda, hai sbagliato indirizzo. Sempre più verso l'arte, Parenzo Bonanno. Vabbè, sempre più essere... verso il teatro. No, l'arte è un'altra cosa. Sempre più verso il teatro. Verso il teatro. Io voglio dire una cosa. Un po' su, no? Scusa un attimo, Gianluca, ma di fronte ai signori Rom che hanno massacrato di albanesi, no, che erano? No, romeni, sì, che hanno preso. Hanno massacrato la donna di Ferrara che poi è morta. Ecco, tu che cosa faresti? Ma io ho fatto questo in realtà. Nella mia pagina Facebook hai fatto un sondaggio, sì, cosa farei? E devo dire che ho avuto circa 700 risposte dove veramente io in confronto sono un super democristiano. Sì, cioè, vabbè, non sei democristiano, tu diciamo la verità. No, in confronto ho detto, in confronto, cioè sono stati molto più duri di quello che è la mia idea. Cioè, veramente, cioè, credo veramente che ci sia una grossa fetta di italiani che siano veramente molto duri e drastici su quello che... Ma tu che faresti essere... con questi qua? Tu, diciamola tutta, quello che senti. Guarda, io sono per la... Sinceramente, personalmente, non è questo ovviamente un... Sì, la posizione della Lega. Però, con delle cose del genere, io veramente sono per la pena di morte. Questi qua li ammazzeresti? Sono per la pena di morte su cose di questo genere, sì, su persone cioè quando uno massacra di botto una vecchietta di 83 anni e 84 anni tu lo manderesti al patibolo. Ma hai già pensato anche alla tecnica? Cioè cos'è la cosa migliore? No, vabbè, penso che gli americani si siano molto evoluti. No? Beh, però in America, poi, in qualche stato c'è l'impiccagione, in qualche stato c'è la ghigliottina, no, però, in qualche stato c'è no, la ghigliottina non c'è. Non c'è più, sì, è vero. No, ti informo che no, dal 1789... Stavo scherzando, in qualche stato, anzi, no, la maggior parte sono però le... C'è da dire che... c'è la punturina, come la faresti, la punturina? C'è la Cina, c'è l'Arabia Saudita, ci sono tanti paesi... Beh, noi siamo paesi proprio democratici, comunque la punturina la faresti o no? Sì. La punturina, cioè la pena di morte. Sai dove con se la deve fare la punturina? Con la puntura, sì. Cioè col veleno, con l'avvelenamento. Ma sì, iniezione, cosa, con l'iniezione letale. Da quando sì, hanno chiuso i manicomi e li mandano in Parlamento? Questo è il dramma della Basilea. No, ma dai, su, ma questo qua. Da quando hanno chiuso i manicomi e usano le istituzioni per mettere persone socialmente non pericolose, perché non è pericoloso lui, ma socialmente disturbate, e questo è il risultato. Fermi. La zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Comunque, ragazzi, io non mi rassegno al fatto che non si possa fare nulla. Messina praticamente con le pezze al culo, senza acqua, e i consiglieri comunali che alla fine si sono messi in tasca €1 milione con questo giochetto, eh. Cioè uno stipendietto ciascuno di €2000 in più, che sembrano pochi, ma in realtà per un sacco di gente sono dei bei soldi. Cioè si inventavano riunioni fittizie, alcuni di 30 secondi, alcuni di 2 minuti. I giudici hanno pizzicato soprattutto quelli che partecipavano a finte riunioni per meno di 3 minuti, cioè sostanzialmente non partecipavano. Non li hanno beccati tutti, eh. Cioè a un certo punto hanno deciso di dimezzare i rimborsi per le sedute delle commissioni, no? Giustamente sì, il comune di Messina. Questi si sono inventati un sistema per guadagnare quanto guadagnavano prima, capito? Ma una truffa. Ah, insomma, io non ci posso credere che non si possa fare nulla. Cioè, qualcosa bisogna fare al di là della questione, le indagini, farli dimettere tutti in blocco. Come sì, si fa? In qualche modo bisognerà fare, però. In qualche modo bisognerà. Non c'è dubbio. Va bene, Gianluca Buonanno, Lega Nord ha proposto la Lega di... Sì, la Lega, la pena di morte per... per no, il mio parere personale. Vabbè, cioè, sì, ma infatti, io faccio questo ragionamento. Io ho una mamma di 83 anni. 83 anni mia mamma. Sì, se viene qualcuno... Se capitasse una cosa del genere, a me verrebbe veramente, diciamo così... la risposta a quello che ho detto, cioè vabbè, la voglia di strangolarli, la voglia di ucciderli, eccetera. Però secondo te la risposta giusta per alcuni tipi di reati è la pena di morte? Io penso che il nostro paese che ha questa demenza costante, cioè quella che il 90% dei reati rimane impunito, quel 10% che viene colpito, che riesce a essere, diciamo così, preso il colpevole, molto spesso non vanno neanche in galera. Questo perché? Perché ci sono delle penalizzazioni, perché abbiamo una legislazione molto blanda. Negli altri paesi sbagli, paghi. I romeni che conosco io, perché ne conosco alcuni che stanno anche dove abito io, dicono chiaramente che i delinquenti non vogliono stare in Romania, perché in Romania quando li prendono non escono più di galera. Vengono in Italia perché praticamente c'è e possono fare quello che hanno voglia, e non è colpa delle forze dell'ordine che eseguono e rischiano la vita per arrestare. Ma della legislazione, d'accordo, ma quelli là invece che hanno scarcerato dopo la manifestazione di Bologna di domenica scorsa? Altra cosa, ma cioè io non capisco. Cioè questi qua sì, però sono stati scarcerati, i poliziotti, e poi vengono fuori. Però sono stati scarcerati con le leggi che avete fatto voi, ti voglio ricordare. Cioè, adesso le leggi che abbiamo fatto noi non l'avrei fatto tu personalmente, come no? Sì, sì, sì. No, perché come no? Sì, molte delle leggi, solo la sinistra le ha fatte. Molte delle leggi che impediscono anche il fermo oltre alcuni reati. Esatto, le avete fatte voi. Allora ti racconto questo. Oggi sono andato a prendere mia figlia a Siena, ad esempio, no? E arrivo alla stazione piuttosto presto. Assisto a questa scena, un signore italiano, usciva da un negozio l'Unieuro di Siena e con un televisore. Ma enorme, un televisore proprio di quelli e correva. A un certo punto sento urlare questi: fermatelo! Al ladro! Al ladro! E rincorrono questo, che con questo televisore enorme, allora? 42 pollici. Lo braccano, chiamano la polizia, ovviamente lo fermano e poi lo hanno rilasciato, i poliziotti. Cioè, voglio dirti, questo è avvenuto stamattina alle 10:30. Ma sì, ma perché non ci sono i mezzi tecnici, hanno fatto delle leggi tali, esatto, anche loro, esatto, del centrodestra, esatto, che non si può mettere, cioè, il fermo più... anche di polizia, non è che lo puoi sbattere in gattabuio, magari lo tengono un paio di ore in questura, fanno il verbale e tutto, si fanno dare il documento di dove risiede. E la stessa cosa per chi fa devastazioni, esatto, la stessa cosa, esatto, per chi fa devastazioni. Dipende dal reato poi. Se tu vai come andiamo tutte la stazione ferroviaria di Milano, di Bologna, di dove vuoi, e ti dicono i poliziotti, prendiamo quelli che borseggiano e praticamente perdiamo noi più tempo, che questi sono già fuori. Ma funziona così ormai. Sì, ho capito, ma ti ripeto, avete fatto le leggi, siete voi che avete fatto le leggi. Sì, vabbè, cioè, sono io, è colpa mia. No, colpa tua, mia. Ma l'avete fatto. Ma tua, allora, sei insignificante. Io dico che non è più una questione di destra o di sinistra, che si facciano poche cose, ma che siano ben chiare, e che chi sbaglia rimanga in galera. Ma non è che ci vuole uno scienziato. Purtroppo però in questo paese chi è uno che non ha niente da perdere è privilegiato rispetto a chi si comporta bene, perché chi si comporta bene ha solo delle grane. Vabbè. Ma su tutti i fronti, questo è quello che succede nel paese. La gente normale ti chiede poche cose che tu le possa fare, so, sai, e invece che... c'è insicurezza. Ho capito. E non c'è, sai, Parenzo, che recentemente vedo Buonanno un po' moderato, secondo me è stato un po' rimproverato dal signor Salvini. Sì, un po' l'ha sculacciato con l'ortica. Secondo me ti ha sculacciato un po'. L'ha sculacciato con l'ortica e gli ha detto: guarda che devi stare più buono, non devi più dire stronzate. Ti ha detto di stare un po' zitto, signor Salvini. Sono qua a parlare, non penso. Però. No. Però ti devo adesso dire è giusto che, la pena di morte, vabbè, ma questo è normale, no? Non è com'è? Che dici sì, in altri contesti pena. Avessi detto che so la garrotta, o avessi detto vanno messi con, gli va messo un serpente nel sedere, cioè avresti fatto delle avresti usato delle immagini più alla buona. Ora dici no, ma forse ci sarebbe una pennetta di morte. Però ho capito una cosa, che dici tante stupidaggini e che giochi con la politica, ma va bene che mi aveva detto una volta mio nonno, che la porta si chiude, ma se la chiudi piano o se la sbatti? Si chiude sempre, c'è un modo e modo. E allora? In questo caso io ripeto che sulla pena di morte io sono per la pena, so che non si può applicare, so che non si possono neanche però applicare. Però intanto lo dici. Portati. Però lo dico perché lo penso. Sì, lo dici per titillare gli animi della gente. Cioè tu pensi perché che quelli che hanno... Incredibile. Sono dei criminali bestie. Sì. Punto. E non c'è niente neanche da discutere. Ma in carcere tu che cosa? Siccome adesso sono in carcere, cosa faresti? C'è qualche signore? Cosa farei? Li metterei in un posto dove non ci sia riscaldamento, non ci sia niente, e pane e acqua, tra come si vuol dire. Punto e finito, non devono neanche uscire. Punto. Senza riscaldamento. Magari senza nulla. Affidati alla senza cura nulla. Di qualcuno. Quelle sono bestie. Cioè, perché chi fa quelle cose lì può essere solo una bestia. Magari punto. Si può sperare anche in qualche cosa da parte di qualcuno, di qualche carcerato, no? Qualche cosa in galera. Vabbè, risolverebbe il problema prima. Cioè, tu dici qualche carcerato, cioè tu speri che qualche carcerato italico. Io non spero niente, però. Quella gente lì non merita niente. Cioè, se vengono ammazzati in carcere da qualcuno, non ti dispiace. Sicuramente non ti dispiace. Sicuramente no. Sicuramente no. Cioè, si può sperare che alla fine succeda questo. Perché no, altrimenti... magari gli succede qualcosa tipo Sindona. Potrebbe succedere così, no? Tipo Sindona, eccetera. Cioè, tu dici il fatto stesso di mantenerli in carcere è orribile. No, non è che è orribile, però spese di soldi pubblici. Per persone che non meritano, per quello che hanno fatto, di stare qua. Però hai visto la tua chiara... Oppure l'altra cosa sarebbe... l'altra cosa democratica sarebbe quella di trovare un accordo con la Romania e dire senti, gente come questa qua, te la riprendi tu e ti aggiusti tu. Così non spendiamo soldi e te li fai vabbè, tu. A quel punto cambierebbero la suonata. Perché ti ripeto, me lo dicono i romeni. Sì, in Romania sono molto più duri. In Romania però sono hai visto molto la tua, più duri. Hai visto la tua chiesa che cosa produce? Pure i preti che si fottono qualsiasi cosa. Cioè, l'abate di Monte Cassino. Non è la mia chiesa. Tutti, comunque tutti. Io sono un cattolico. Sono credente e si vede dalle parole che usi, mi dà fastidio. Dalle parole che usi si capisce proprio lo spirito della carità cristiana, si è evidente, insomma, trasuda proprio. Io faccio un altro tipo di quella chiesa. No? Comunque questo qua frequentava chat, eccetera, e ancora una volta la tua chiesa è piena di froci. Diciamola tutta, Gianluca. No, vabbè, io come ho già detto, così come succede a Bruxelles, così c'è la lobby dei gay, così c'è lì, ci sarà anche nella chiesa. Cioè la lobby gay nella chiesa, dici? Ma certamente sì, ma poi non lo dico io, ho sentito degli altri prelati, non mi ricordo il nome, che dicono in maniera diretta che c'è la lobby gay. La lobby non gay? Non è che me la invento io. Sì, no, ma può darsi che ci sia una lobby gay nella chiesa, vabbè, d'accordo. Beh, poi Il problema è che secondo me la gente sempre di più non crede più a nessuno, perché se vabbè, è quello per forza. Nel Vaticano cosa vedi in giro? Va bene, ciao Gianluca. Volevo dirti questo, che, se uno dà 10 euro di elemosina e sa che di quei 10 euro 1-2 euro va, a me lo dici, io non, vado, io non do nulla, l'8 per 1000 mai, no, mai dato, mai dato. Non mi dire che tu dai soldi alla Chiesa, non mi dire che dai soldi. Io? No, io gli do la comunità ebraica. Buon anno. Ma figurati, cioè, io penso veramente che bisogna girare la pagina e fare Piazza Pulita. Ma di che cosa? Piazza Pulita. Ma di che è un programma? Cioè, chi sbaglia paga, non c'è più né bene A né O né Z. Piazza Pulita, punto e finito. Sbagli in politica, quelli di Messina. Ma quelli bisognerebbe prenderli e portarli sull'acquedotto dove manca l'acqua e lasciarli in mano alla gente. Lasciarli in mano alla gente così. Ma certo, ma perché quelli che fanno impiccarli in piazza, dici te. Ma no, non impiccarli in piazza. Però chi fa determinate cose e poi va magari a difendere, ci vuole l'acqua, dobbiamo fare qui, dobbiamo fare là, e poi tu sei il primo a fare quello. Senti, che tu fai. A Napoli sei mai stato? Sì, certo. Come la trovi? Sporca? No, l'ho trovata quando sono andato in alcune occasioni, in certi punti anche molto elegante, in altri molto brutta. Ad esempio fuori dalla stazione una volta ho visto che ci sono stati 100 metri di venditori abusivi. Vabbè, ma secondo te che città è? Cioè, è una città italiana oppure appartiene ad un altro mondo Napoli? Cioè, vige un'altra legge? Vabbè, certamente non hanno le regole che ci sono ad esempio in altre città del nord, ma questo va per la mentalità. Poi c'è molta brava gente, ci mancherà. Vabbè, questo altro. Sì, però sono diciamo nell'anno. Però c'è più una, secondo me vige un po' più il Far West. Il Far West a Napoli, sì. Far West. Vabbè. Per certi aspetti sì. Ciao Gianluca, ciao. E togliete un po' di sta cazzo di pubblicità, date un affanculo. La Zanzara. Allora ragazzi, andiamo a Pordenone. Giulio, vai. Giulio. Sì, pronto. No, non sono Giulio Cruciani, sono Gianluca Nicoletti. Perdonami se ti ho chiamato, ma... Dimmi. Volevo riportarti un'esperienza di quando studiavo con le suore. E quando, sai, noi giovinotti ci ribollivano questi ormoni che risalivano, andavamo da Suor Gaeta, che aveva queste forme. Che dove andavate? Scusa Gianluca, non ho capito. Ma è Nicoletti questo? Sì. Ma sono Nicoletti, sì. Ma sì, certo, Gianluca, sì. Lo riconosco. Allora? Andavo da questa suora, perdonami, andavo da questa suora e le alzavamo la sottana con queste forme, da questo corpetto, dalle quali esplodevano questi seni. E questa suora, Giuseppe, devi vedere, aveva questi occhi che trasudavano quella gioia che però non poteva essere espressa. E io in questo prete... Io, Giuseppe, io ci credo a questo prete e voglio dire che non ci trovo niente di male. Io penso che tu sarai abituato così a leccare le parti più profonde delle donne, e allora? I loro piedi, e tu che sei abituato a passare... Ma mica faccio il prete io però, Gianluca, scusami. Certo, no, ma sto dicendo che tu sei abituato a passare... la lingua tra le pieghe interdigitali di questi piedi che magari sono stati tutto il giorno all'interno di stivali, sono sudati. Vabbè, dipende comunque. Pieghe interdigitali in cui ribollono i sudori e proliferano i germi, queste parti più marcescibili, putride delle donne. E allora? Ma tu potrai capire bene, quella che è la voglia di questi preti, di questi... Sì, ma la posso capire, certamente la voglia di questi. Certo, io sono anche a favore del matrimonio tra i preti, eccetera. Ma aspetta, che ti passo un mio amico carissimo di Roma. Adesso lo passo, si chiama Giuseppe. Chi è? Sì, pronto? Sì, dimmi. Chi è? Giuseppe da Roma? Come? Dica. Ma chi sei, scusa? Sono amico di Nicoletti, sei. No, dica lei. Allora, aspettate, traffico. Sei tu che hai chiamato? Vabbè. Manda al traffico. Traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presento La Zanzara. Allora ragazzi, leggo su Visto una lettera mandata a Don Claudio. Don Claudio credo che sia un prete che risponde alle lettere, c'è una rubrica di lettere su Visto. Il titolo è questo: matrimonio e sesso, ci sono dei limiti? Buongiorno Don Claudio, ho 27 anni e sono sposata in chiesa da un anno. Io e mio marito ci stiamo conoscendo fisicamente, no, da sottolineare questa cosa qua. Io e mio marito ci stiamo conoscendo fisicamente solo dal momento in cui ci siamo detti sì davanti al Signore. Le cose da questo punto di vista vanno bene tra noi e sono molto serena, ma ultimamente lui nell'intimità esprime desideri che non avrei mai immaginato potesse esternare. Anche perché siamo arrivati entrambi puri al matrimonio, per una scelta condivisa. Mi domando se per la Chiesa esistano limiti e confini in questo campo. Grazie, Giulia, Perugia. Mettiamo che sia vera. Questi qua sono arrivati al matrimonio vergini. E vabbè, già qui c'è una perversione, farà, naturalmente. Ma no, perversione, beh, ragazzi, lo farà, ma se no? Tu arrivi vergine al matrimonio oggi nel 2015 sei malato di mente. Diciamo se non te l'ha obbligato, se no, non ti ha obbligato. Perché ognuno stato, fa le scelte che la fa. Sei malato, dai, sei malato, se arrivi al matrimonio. C'è una perversione che bisogna dirla. Ma va bene, ma posso pensarla come te, ma sono molto meno perverso io rispetto a queste persone, no? Che pratico, ma diciamo, un libertinaggio abbastanza spento. Non mi spingerei così oltre. No! Ma già il fatto che uno manda una lettera a Don Claudio, ripeto, poniamo che questa lettera sia vera, 27 anni, sposata, in chiesa da un anno, ci stiamo iniziando a conoscere fisicamente adesso, dal momento in cui ci siamo detti di sì, per carità. Adesso chissà che richieste farà a lui, strane, cioè, perché a un certo punto questo qua gli parte la vena, giustamente, e oltre alla trombatina, diciamo, classica, se mai hanno iniziato a fare quella cosa, chiederà qualcos'altro, no? Risposta del mitico Don Claudio, che secondo me non esiste, ma comunque mettiamo pure che esista Don Claudio. La sessualità è una parte importante del matrimonio, e vabbè, siamo d'accordo. Il piacere e la gioia che ne derivano non sono da demonizzare. La sessualità non è mai disgiunta dalla finalità procreatrice. Al contrario, è sempre orientata al dono della vita. Perciò tutte quelle pratiche sessuali che hanno come scopo il solo godimento, fine a se stesso, e che utilizzano il corpo dell'altro solo come oggetto di piacere, non sono espressioni reali dell'amore cristiano. In tal senso, vanno considerate illecite. Cioè, è illecito tutto quello che non è la trombata ai fini della procreazione, e dunque vado anche la semplice sega, il pompino, la masturbazione, eccetera eccetera. Adesso non devo fare l'elenco, Parenzo, no? No, ecco, appunto, no, ascoltavo per capire fino a dove tutte quelle pratiche sessuali che hanno come scopo il solo godimento fine a se stesso e che utilizzano il corpo dell'altro solo come oggetto di piacere non sono espressioni reali dell'amore con la maiuscola, scrive il prete, dell'amore cristiano. In tal senso vanno considerate illecite. Siamo ad alti livelli qua, mamma mia, la Chiesa cattolica, capito? E uno dovrebbe dare soldi a questi qua. Vabbè, io sono fissato su questo ormai. No, ma sei fissato, però non è vero che, cioè, fai un torto, è inutile dirlo. Fai un per colpa della curia di Roma e di quell'altro monsignore di non mi ricordo dove, fai un torto alle migliaia di persone che invece fanno un lavoro straordinario. Ma, e ti ripeto, non dovevo essere io a difendere il Matteo da Modena, vai Matteo. La parrocchia, ciao, diciamo, concorrente. Ciao. Dimmi Matteo, dimmi. Ascolta, no, io non sono dell'idea del leghista che ha parlato prima, però sinceramente riguardo la pena di morte ho la mia idea, nel senso che per crimini particolarmente ferati del tipo il delitto di gara Gambirasio o anche altri delitti tipo quelli di Erba, secondo me la pena di morte è necessaria. Sì, però una volta che la introduci non è che la limiti, a limiti a che cosa? Cioè al delitto efferato, a che cosa? Efferati e alla pedofilia. La limiti a quelle due situazioni lì, anche perché la vita anche di un pedofilo per la gente che subisce il danno e per i familiari che subiscono i danni, ma anche per la società, quanto vale? Vale niente. Ma non lo so, ma è chiaro che introdurre la pena di morte è un discorso un po' più complesso, cioè non è che c'è solo il fatto di dire, beh, limitiamola a qualche reato. Ti rendi conto? Negli Stati Uniti via via la stanno eliminando dai pochi stati nei quali rimane e qualcuno invece qui chiama per chiedere di metterla. Vabbè, ma questo vuol dire che la gente pensi di introdurre la pena di morte di fronte a certi delitti efferati, non è una cosa così incredibile. No, ma sto dicendo una cosa. Non succederà mai. Sì, perché la società va avanti, no? Quelle democratiche. Lasciamo liberi questa gente qua, cioè, non lo so che cure si possono fare per queste persone, secondo me sono incurabili. Sì, ma no, non è quello il punto, è che l'introdurre la pena di morte ha un significato che va oltre i casi singoli, no? Cioè, significa introdurre il principio della pena di morte, cioè per certi casi, eppure in alcuni stati americani che noi tutti consideriamo democratici, la pena di morte viene applicata. Certo, ci sono discussioni, esatto. Alcuni stati ritirano, la Corte Costituzionale americana potrebbe, no, potrebbe giudicare la pena di morte anticostituzionale, dunque vietarla, ma non lo so, sono discussioni che vanno avanti da tempo. Io sinceramente resto ancora contrario alla pena di morte per certi reati, meno male. Cioè per i reati, resto, per tutti i reati resto contrario all'introduzione della pena di morte. Certo, il problema è che questi qua fanno pochi anni di galera, anche quelli che ammazzano, su questo non c'è dubbio, per tutte le questioni che ci sono in Italia di sconti di pena, perdonismi vari, eccetera. Vittorio Bergamo, vai. Sì, ciao. Dimmi. Meno male che questo qui che ha telefonato adesso è una persona normale, non sono d'accordo con lui, ma è una persona normale, ragiona normalmente. Sì. Ti facevo questa domanda che io la sera quando torno dal lavoro, sì, ascolto la vostra trasmissione, ma sì, o sono sfortunato io, è mai possibile che da voi telefono solo dei mentecatti, voglio dire... Ma tu sei un mentecatto? Eh? Tu sei un mentecatto? Per ma fortuna. Probabilmente se vi ascolto sì, perché non è possibile che è un periodo che io sento solo dei poveretti, gente che telefona per insultare Parenzo, ma è normale, ragazzi, quelli sono miserabili, io capisco, se io faccio il commerciale, quindi per me il Vangelo è il fatturato, quindi per voi probabilmente sono l'audience, però secondo vi aumenta l'audience a fare un il punto è molto semplice, qui c'è un microfono aperto, ci sono dei casi di cronaca, di politica che vengono, come dire, no? Ma quando vai, è un sacco di tempo che non fate più parlare un politico serio, a parte politico che mi divertivo serio, quando, politico quando, serio. Quando invitate Borghese, la Sant'Ancheo, Bonanno, allora che vuoi, appunto, allora? Li prendevate in giro Razzi, Cilipoti. Allora? E quello mi divertiva, ma questo qui ma guarda che lo facciamo ancora, poi ci sono gli ascoltatori che intervengono, cioè qual è il... A sentire ma veramente di bassissimo livello vi siete resi conto? Sì, ma come il basso livello, alto livello, chi lo decide, tu? Ma no, quando allora... sento fare certi discorsi, ma nel senso che non sono poi neanche credibili. Ma perché dai dei giudizi morali? Si inventano delle palle incredibili a raccontare. Ma quello è un altro discorso. Uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, può dire questa è una stupidaggine. Ma scusate, filtrateli un po'. Io mi domando, voi siete intanto la radio di Confindustria, no? Sai che non è un problema. Poi non rispondete a Confindustria, ma se c'è qualche industria, rispondiamo. Industriali, probabilmente la sera a quest'ora vanno a altro da fare che ascoltare la vostra radio, però se ascoltate la vostra radio dice ma che cacchio di radio abbiamo messo in piedi proprio... poi non so se poi i vostri ascolti salgono, allora avete ragione voi. Ciao amico mio, ciao. Ciao, ti saluto, ciao. Intanto Carminati continua a chiamare, caro Parenzo. Sì, continua a chiamare Carminati. Sì, continua a chiamare perché l'impianto telefonico evidentemente non è a posto. Continua imperterrito a chiamare. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, senti dello sto nome. Massimo Carminati fu. Ah, tu fui! Ah! Me devi dare i sordi! Me devi dare i borchi! I borchi! Se mi devi dare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Massimo! Oh. Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Ma dimmi chi sei, fammi capire chi sei. Io mi chiamo Massimo Carminati, senti dello sto nome. Se pensa di mettermi paura, capito? Lo so io chi è. Quello che c'ha la perdita. Quello che c'ha la perdita. Poi chiama anche persone conosciute. No. Sì, chiama anche persone conosciute. Beh, senti, mi sa che ha chiamato l'avvocato Taormina, senti. Ma non è vero. Senti. Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Massimo Carminati, segnatelo. capito? Segnatelo. Ma chi? Ma con chi stai a parlare? Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? L'impianto? Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Guardi, io sono l'avvocato Taormina, non c'entro proprio niente con la SIP, eh. Io sono quello che abita là. Dove là? Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome. Ma Massimo, guarda che Massimo sta in galera e io lo conosco bene, quindi non è che... Se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Vabbè. Andiamo a cercare. Avvocato. Io sono Carlo Taormina. Io sono Carlo Taormina. Non si scompone. Ah, l'attacco. Lo conosco benissimo. Conosco molto bene. Io sono Carlo Taormina. La SIP poi, la SIP. La SIP. Non esiste più la SIP. Tu sei uno strumento nelle mani del demonio. State ascoltando un programma offerto da Huawei, make it possible. La Zanzara. Io sono dedico che i profughi in Italia devono essere cristiani. Nel mio paese devono arrivare i profughi cristiani, non islamici. Questo era Donato, ma per la serie Parenzo, i tipi da Zanzara, ce n'è uno che voglio ricordare. Siamo alla fine della settimana, eh? Ce n'è uno che voglio ricordare nei tipi da Zanzara che tu tanto ami. Sigla. Tipi da Zanzara. Alessandro Firenze, vai Alessandro. Dimmi. Negli ultimi 20 anni, sì, allora, quanti francesi hanno stuprato, rubato? Quanti tedeschi? Quanti svizzeri? Quanti spagnoli? Quanti cazzi vuoi? Solo i rumeni, sono loro, vanno bruciati. E questo vuol dire essere razzista, un po' razzista lo sono, per cui io brucerei i rumeni li brucereste. I rumeni. Così, perché, ma i delinquenti. Allora, l'indole dice quella è quella dei ladri, quella dei ladri. Ecco, cioè, per esempio, fuori, quando Hitler se l'ha presa con gli zingari, tu insomma. Forse non aveva fatto tanto male. Forse non ci aveva visto tanto male. Vedi? La verità. Sì, perché dice i campi rom, c'è i topi, sì, là. Beh, i topi stanno in su, dice ragazzi. Cioè, se arrivassero dai coglioni farebbero molto piacere, anzi, prenderei usare. Se tu pensi che vadano eliminati, dunque pensi che i campi rom vanno bruciati. Sì, sì, eliminati. Vabbè, eliminati. Alessà, te saluto, ciao. Tipi da Zanzara. Allora ragazzi, andiamo a Roma, Loretta, vai. Ciao Giuseppe, tu sei come la droga, fai male ma non se ne può fare a meno una volta che sei entrato. Dimmi, Bellissima. Cara, dimmi. Senti, hai detto che tu non dai una lira per l'8 per mille. No, io indirettamente purtroppo l'8 per mille lo diamo tutti, in qualche modo. Tu sai che dai pure la fetta più grossa, sì. Perché quando tu non decidi, certo. Ah, se non decidi dai la fetta più grossa. Cioè, se non decidi va direttamente o allo Stato. No, se non decidi, documentatevi, se non decidi. Sì, no, lo so. I soldi non dati vanno ripartiti in base alle scelte espresse. Certo. E quindi Tremonti se l'è proprio giocata bene sta cosa. Oh, poi un'altra cosa per i profughi. Sì. Lo sai qual è la prima radio che mettono, la prima televisione? Sono a Santa Lucia di Roma. Sai qual è la prima televisione sull'1? Di solito ci sta canale 1, no? Il primo. E sul 2 il secondo, sul 3 il terzo e così via. Rai 1, Rai 2, Rai 3. Indovina qual è la prima qui? Qual è? Non ci indovinerai mai. Ma dove la prima? La prima sulla tastiera del televisore che c'hanno i leggenti sul letto, no? Di dolore. Sì. Tu paghi 50 euro e loro ti attaccano la televisione fino a che ci stai. Molto, ma dove? Molto. Però, dove questo? A Santa Lucia. A Santa di Roma, Lucia. Fondazione allora? Santa Lucia. Indovina, andando a cercare Rai 1, tu spingi 1 perché poi invece il resto che c'è 2, 3. Invece che c'è sull'1? Al Jazeera. Vabbè, hanno Al Jazeera perché magari alcuni vogliono parlare in arabo e capiscono l'arabo. Ma perché non l'11? E che c'è tutti l'11? Quanti che vanno a mettere 1 per fare il canale 1, no? Rai 1? Sì. E invece di trovare Rai 1, trovano Al Jazeera al primo posto, pole position. Dunque? Poi 2, c'è 2, 3. Beh, diciamo che siamo oltre che accoglienti, che dici? Beh sì, ma insomma, qualcuno chiede di mettere Al Jazeera, dice che tutti quanti mettono, trovano all'una, sull'uno Al Jazeera. Certo, è stato settato in modo che al primo, al numero uno c'è Al Jazeera, poi al due c'è Rai 2, Rai 3, Rai 4, per tutto quanto, al numero 11 trovi primo canale del Rai TV Rai 1. Nazionale. Va bene Loretta, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Da grande sale trocio, oh, oh, oh. Da grande sale trocio, oh, oh, oh. E non è un reato, oh, oh. Niente di sbagliato. Conosci, Parenzo, questa canzone, Da grande sarai frocio? Guarda, no, conosco molto bene De Gregori, Guccini, conosco bene i Pink Floyd, conosco bene gli AC/DC, conosco bene... Sei rimasto indietro. Questa non l'ho, scusa, ma non l'ho... Ma fai molto male, perché ha un discreto successo, è un discreto successo. Fammela sentire un attimo. L'autore di questa, aspetta, ritornello, cosa sostiene? Da grande sarai frocio. Da grande, capisco. Ora non lo sai, piccolo uranista, non fermarti mai. Allora, l'autore di questa canzone, sì, e anche il cantante, si chiama Gol. Immanuel Casto, che saluto, buonasera, buonasera. Buonasera a voi, eccomi. Come stai? Ma benissimo, sono qui ritirato nella mia magione invernale. E la tua magione invernale, perché hai anche una magione estiva? Ma certo. Palazzo d'inverno. La magione invernale dove sarebbe, Immanuel? A Bologna. Allora, invece quella estiva dov'è? Negli Hampton. Ma no, sto scherzando, comunque sono lieto di sentirvi. Senti, Emanuele, ma Emanuele dire? Casto è un nome di battaglia, immagino. Beh sì, certamente. Esatto, no, è un nome d'arte, c'è dietro anche un aneddoto, ma non credo vogliate sentire. No, lo vogliamo sentire. Ero bravo in filosofia, il mio vero nome è Emanuele, quindi l'insegnante di filosofia, dopo essere stato con gag del tipo non mettermi in Benedetto Croce, una volta mi disse: Emanuele Kant. Poi Casto, perché Casto Divo, uno dei tanti epiteti con cui il mio seguito si rivolge a me. Casto Divo, così? Però tu, Casto non sei. Ma come persona sì, in realtà. Beh, a livello artistico sì, sono... Cioè, come persona, sei nella tua vita privata, sei Casto? Abbastanza, dai, sì. Dai, Casto, non, che vuol dire non Casto è possibile, Divo? Dai, su. Non... Ma sono una persona morigerata. Sei morigerata, cioè... Innanzitutto, non tutti diciamo, sono come te, ma voglio dire... No, io non sono affatto morigerato. Appunto, no, ho detto... Sono affatto morigerato. Cioè, sei omosessuale tu, o no? Sì, naturalmente. Io? Sì. Sì. Anche sei omosessuale? Pensavo che lo stesse chiedendo tra di voi. Noi siamo abbastanza eterosessuali. Abbastanza. Siamo eterosessuali, però non è che lo gridiamo al Io convintamente, ma tu convintamente male. Perché tu nascondi un po' di no, ma sì, perché di non dico che ti danno fastidio gli omosessuali, ma però stai scherzando. Non, no, ho detto che se uno dice come sono eterosessuale, molto, non si può dire. Ma tu, per esempio, Emanuele, che sei comunque molto conosciuto nel mondo omosessuale, eccetera. Per le tue canzoni, eccetera, eccetera. Sì. Sei per il matrimonio? Ti pare una grande stronzata, una cosa vecchia, antica o no? No, lo trovo molto importante. Poi a livello di scelte personali, se uno non ha voglia di starsi in questa avventura, è giusto che non lo faccia. Però assolutamente è un diritto importante. Cioè, ti sposeresti tu? Assolutamente sì. Sì, e sei fidanzato adesso? No. No, no. Vorresti? No. Vorresti? Lo vorrei, sì. Vorresti, però ancora non è successo. Cioè, vorresti portarlo, che ne so, all'alta? Perché io sono favorevole al matrimonio e anche all'adozione. Cioè, un bambino lo cresceresti insieme al tuo compagno? Così facciamo incazzare qualcuno. Assolutamente sì, ci vorrebbe un compagno estremamente devoto alla famiglia, perché sono piuttosto concentrato sui miei progetti, quindi non... Vorresti un compagno da tenere un po' al guinzaglio, ma non in senso, per carità, non in senso così sessuale. Ma vorresti un compagno un po' femmina, insomma, un po' donna. Se vogliamo avvalorare questo stereotipo, sì, nel senso dello stereotipo della donna, nel senso dello stereotipo. Esattamente, sì, diciamo così, un po' mamma, ecco. Un po' mamma. Ma tu te la immagini la famiglia, Parenzo, pensa a Donato da Varese cosa direbbe? La famiglia tra Immanuel Casto, Donato è un nostro ascoltatore, Immanuel. È un malato di mente che chiamo ogni tanto. Immanuel, col suo fidanzato che portano a scuola un bambino, trovo una cosa meravigliosa, che portano a scuola un Donato figlio. Donato da Varese e Immanuel insieme. No, fidanzato, qual è Emanuele, il suo fidanzato. Guarda, che io non lo escluderei, però. No, che no. Donato deve essere regalata a chiama. Non fare incazzare Donato. Non fare incazzare. Chiama facendo il maccio, ma in realtà l'hanno visto che si metteva il rossetto. No, dai, non lo scatenare così. Sono dai. Tutti a Varese. Allora, io. E si è fatto anche le unghie blu. A me piace molto. No, le unghie blu, no, il rossetto e le unghie blu Donato da Varese. La non è possibile. Che guarda, si mette il rossetto, uno me l'ha segnalato. L'ha visto, lei è Donato da Varese. E lui, senza controllo sanità. E intanto si metteva il rossetto, capito? Sì, ma poco male. Tu lo sai, Manuel, che no, Parenzo, sai che Manuel utilizza senza problemi la parola frocio? E no, questo, ma sto guardando anche le foto di Manuel. E questo mi fa godere molto. Ma, lo sai che in realtà la molti canzone, pensano. Scusi, che bella la cappella è sempre sua? Sempre opera sua la canzone Che bella la cappella? Sì, sì, sì. È un mio vecchio cantico ormai. Ah, un vecchio cantico, capito. Interessante, no? Stavo guardando due o tre cose. È un evergreen. Che bella la cappella, capisco. Ci sono anche altri titoli. Diciamo la verità. La parola frocio si può sdoganare o no? Cioè si può utilizzare tranquillamente o no? Non mi formalizzo molto su queste questioni lessicali, insomma la discriminazione è molto più grave, è molto più omofobo uno che dice io assolutamente sono contro la discriminazione ma il matrimonio è una cosa sacra, quindi i gay non si devono sposare, che uno che scherzosamente dice frocio, su questo non si piove. Poi insomma sì, può essere un termine razzista, ma dipende, anche gay può essere usato come offesa, è molto più il senso secondo me che la forma. Ah, tu dici, eh? Cioè io lo uso tranquillamente, sì, sì, sì. Per esempio dici vabbè quelli sono tutti froci, ma così perché qualche con amore lo dici tu. No, ma lo dico con amore, con affetto, cioè non, nessuno me lo riconoscono, o sono stato sdoganato da questo punto di vista. Ecco. Cioè, la comunità gay mi ha sdoganato, una parte della comunità gay, altri non mi sopportano, diciamo la verità. Ma tu quando vai a fare, so che ti hanno, non so che non hai potuto fare qualcosa in teatro, che è successo? Non ti sei potuto usare? Allora, sì, adesso sono in tour e quello ho grandi soddisfazioni, tour, però sì. Dovevo fare un'apparizione, sì. Sì, come la Madonna, nel concerto di Romina Falconi al Teatro del Giglio in occasione del Lucca Comics. La sera prima il direttore del teatro mi ha detto no, dopo il concerto che avevo tenuto, andato molto bene l'anno prima, non volevano che salissi sul palco perché, testuali parole, avevano poi dovuto passare un mese a scusarsi con la curia. Ma perché tu che hai fatto la curia, scusa? Perché tu, vabbè, per le canzoni che fai, per i termini che usi, perché cosa? Evidentemente sì, ma che per le posizioni anticlericali posso dedurre. Senti, però, boh, chissà, cioè, dire, è una struttura ecclesiastica il Teatro del Giglio, non credo, cioè. No, certo. Ma hai visto tutti questi preti gay che escono fuori, questo qua che si inguattava un sacco di soldi, era scritto le cose. Tu li hai mai frequentati, preti gay, preti omosessuali? No, non ho mai avuto il dispiacere. Ah, il dispiacere, perché magari sono delle persone, no, bellissime. Devono essere persone un pochino confuse. Perché? Ma vabbè, certo, confuse, non c'è dubbio. Perché appartengono a un culto che li discrimina, quindi direi che hanno le idee un pochino confuse nel caso. Ma sai, approfittano anche del loro essere preti per fare queste robe qui, molti ne approfittano, non c'è niente di particolare. Ah beh, se la metto così, per trovarsi in contesti pieni di uomini e in contatto con ragazzini può essere un'idea furba, se la metti così. Senti, tu la ragione. Imano, tu la legalizzeresti la prostituzione? Sì. Ah sì. E la tasserei. La tasseresti. Beh, c'è partita IVA con le prostitute. Partita IVA, cioè. E come consideri quelli che vanno a prostitute? Come Parenzo che li considera dei miserabili? No. Sì, tu li consideri dei miserabili? No, li fare il furbo, ho detto che quelli che vanno con queste regole a prostitute. E così hai detto. Ma consideri dei miserabili quelli che vanno a prostitute? Però sono favorevole alla libertà. Vabbè, d'accordo, però se consideri, ma non è una consideri posizione... quelli che vanno a prostitute dei miserabili. Oggi quelli che vanno oggi con queste. Vabbè, ma con è uguale, le ruene, che differenza c'è? Con le albanesi, con le ragazze di colore della Nigeria, considero dei miserabili quelli che vanno lì. Sì, certo. Vabbè, ma certamente c'è distinzione. Cioè, anch'io che sono andato. Allora, io anch'io sono andato in Svizzera in un bordello, sono miserabile, non ho capito. No, in quel bordello lì quelle ragazze hanno scelto. Ma che ne sai che hanno scelto? Che ne sai? Quelle che vanno scelto lì, non hanno il magnaccio, hanno scelto liberamente di andare in un posto protetto, controllato, con delle regole, con dei controlli sanitari, con... è un posto? Ah, non c'è la controlli sanitari? Sì, spero di sì. Spero me lo auguro sì. Per te. Sono d'accordo, comunque, il problema è lo sfruttamento della prostituzione, non la prostituzione chiaro, come scelta. Vabbè, comunque, perché gay è bello? Ma perché ci vuole un moto d'orgoglio, perché comunque è più difficile esserlo, quindi, quindi diciamolo. Cioè, per te, belli, meglio è, per te gay è bello, è una categoria dello spirito. Esattamente, sì, sono d'accordo. Vabbè, Immanuel, ti saluto, va, un abbraccio, ciao. Un abbraccio a voi, ciao. Ciao, caro. Perché lavorare in un call center? quando potrei fare pompini in Costa Smeralda. Beh, questo è un bel interrogativo. Cos'è Walter dalla provincia? Cosa? È sempre il signor Casto, eh? Ah, è il signor Casto. Walter dalla provincia di Milano. È un interrogativo amlettico, direi, no? Beh, ma è chiaro, perché dice, lavora... Ma perché? È una questione da porre magari a Landini, no? Ma che è fondamentale però, perché no, si voglio dire, è una questione importante. Molto importante. Walter dalla provincia di Milano, vai. Pronto? Dimmi. Ci sono. Ah, scusa, stavo mangiando, perché Vabbè, succede anche questo, dai. Succede anche questo, però da mezz'ora che sto in onda. Va bene. Che mangiava, Walter? Come? Che stavi mangiando? C'ho una fame, guarda, che non ho neanche pranzato. Guarda, stavo mangiando, e da una settimana che c'avevo voglia, e mia moglie mi ha fatto spaghetti con l'anduia, perché sono comprese. Sì. Ah. E quindi era buonissimo. Quindi piccanti. E poi? Sai che l'anduia, secondo quello che ci raccontò un eurodeputato del PD, è una specie di Viagra, no? Poi? È Viagra calabro, bravo. Dicono poi, sai. Quindi adesso ti ho chiamato quando ero da solo. A dire il vero, ti ho chiamato quando ero ancora al lavoro. Sono arrivato a casa. E dunque adesso non puoi dire nulla. Davanti a tua moglie non puoi dire nulla. Adesso c'è mia moglie, c'è mio figlio, l'amico del figlio. La famigliola borghese, quindi non si possono dire le stupidaggini. Adesso non puoi più dire nulla. No, qualcosina la posso pure dire. Che volevi dire? Anche spiega. Anche perché volevo fare partecipi i miei figli, mio figlio, che lui mi sente la sera, che dice, mi chiudo e mi sento la zanzara, perché me lo sento in podcast, io la sera. Fortunatamente senza pubblicità. Vabbè, senza... chiama lunedì, va? Ciao. Dai, sei troppo lungo, vai, che volevi dire? Dimmi una cosa. Allora, senti, ti volevo dire, la proposta è per gli assassini, i pedofili, quelli che... forse fortunatamente andranno in carcere, gli proporrei una cordicina nella cella con una sedia, farsi un anno solo, un anno di isolamento, proporrei tanto se si fanno due anni è tanto, un anno di isolamento con questa sedia, una corda, quanto basta. Cioè tu metteresti una corda con una sedia a disposizione e poi in isolamento, così se si impiccano meglio così, poi, non li manteniamo. Dall'altro lato della cella però... Sì. E vorrei che lui vedesse tante fotografie con le vittime che lui ha fatto. Cioè tu apparecchieresti tutta questa roba qui? Come ha combinato, sì. Ma ci costa un sacco di soldi sta roba qua, cioè, bisogna mettere una specie di... una scenografia quasi. Ferretti bisogna mettere. Dai, su. O cavalletti. Vabbè, Walter, ciao. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao. Io, a nome di molti ascoltatori della Zanzara, voglio un nuovo partner per Cruciani. Allora, posto di Parenzo, possiamo prendere il mago Telma, ma perché dobbiamo sopportarci il tuo leccaculismo quotidiano? Hai rotto i coglioni, vai a fare in culo, ti pagano pure in TV, vai in TV. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato ormai. Radio 24, la passione si sente.